tornate a fiorire le rose, alle dolci carezze del sol, le farfalle si inseguon festose, nell'azzurro con trepido vol. Ma le rose non sono più quelle che fiorirono un giorno per te. Queste rose son forse più belle, ma non hanno profumo per me. La tua voce gentile più non allieta il mio cuore. Parole che il tuo cuore